Italia bella, Italia che non va, Italia con troppi stelle, senza no varietà. Italia è l'artista che vanno a protestare, mi recchiere disonesta, non sento una verità. Ah, oh, ah, oh, ah, oh, oh, oh. Italia bella, Italia che non va, Italia con troppi ricchi, che non vanno papà. Italia è promessa, che servono per far parlare. Italia di furbi e fessi, e chi si fa accattà. Ah, oh, ah, oh, ah. È tornato padrone che mi l'unenda sacca va parlando a nazione. È tornato padrone, non ci fa pa ballare, quanto è bello padrone. Oh. Viva il padrone, viva! Italia bella, Italia che non va. Italia di Tarandella, che fanno a caia là. Italia egoista, che se ne fotte la comunità. Italia con l'occhio triste, questo te dignità. Ah, oh, ah, oh. Finestre spalancate il balcone. È tornato padrone, non ci fa papà l'acqua, quanto è bello padrone. Oh. Viva il padrone, padrone sei grande. Italia bella, Italia che non va, Italia che sentinella, che roba ne città. Italia è giustizia, capiamo solo chi non può mangiare. Italia federalista, Italia cagna. È tornato padrone, è tornato cacciacca, cravatti o bastone. È tornato padrone, non ci fa mai tasse. Ma se vediamo in giù. Oh. Ah.